12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Nella puntata di oggi andremo alla scoperta del mondo del lavoro nel settore informatico e nello specifico proveremo a capire di cosa si occupa il web designer e cercheremo di scoprire cosa vuol dire occuparsi invece di social media marketing. Avremo ospite Massimo Fornasier, giovane web designer, e Anna Zuccaro dal mondo del social media marketing. Facendo una ricerca su questo due figure professionali, ci siamo resi conto che non è così facile, rispetto ad altre professioni, trovarne una definizione precisa, perché si tratta di due mansioni relativamente nuove e quindi non del tutto codificate, soprattutto parlando di social media marketing, che è un settore in stretta relazione con la recente diffusione dei social network. Consultando ad esempio il sito del Borsino delle Professioni della Regione Veneto o il nuovissimo portale regionale Orientamento Veneto, in effetti si fatica un po' a trovare informazioni precise su queste due figure professionali. Infatti, in questi portali dedicati all'orientamento formativo e professionale si fa riferimento solamente alla figura del progettista multimediale, che si occupa di ricerca ideativa di prodotti multimediali, di progettazione dell'architettura e convalida dei prodotti multimediali, di modellazione dei requisiti tecnici di sviluppo. Quindi insieme ai nostri ospiti cercheremo di capire esattamente di cosa si occupano queste nuove figure professionali e in che modo poter intraprendere queste tipologie di carriere lavorative. 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. E ora diamo il benvenuto al nostro primo ospite, Massimo Fornasier, benvenuto a 12 minuti. Ciao a tutti, grazie. Massimo, ci racconti qual è il tuo lavoro in questo momento? Allora, io attualmente lavoro per un'azienda che si occupa di assistenza tecnica informatica e sviluppo di siti internet e software dedicati comunque nell'ambito di internet e del web. Ecco Massimo, qual è stato il tuo percorso formativo? Allora, attualmente essendo che sono uno sviluppatore software e web designer, sono perito informatico e dopodiché mi sono dedicato all'università, ho fatto un anno di ingegneria, poi l'ambiente universitario non faceva per me e ho intrapreso un percorso in un'azienda che si occupava di marketing e comunicazione e qui mi sono affacciato al mondo del web e ho iniziato a imparare un po' di software per conto mio, insomma. E ho iniziato a imparare gli strumenti per appunto sviluppare siti web e software in generale. Ecco, quindi mi pare di capire che il tuo lavoro oggi deriva sicuramente dal tuo percorso formativo inerente, perché è in tema informatico, però anche molto dall'esperienza lavorativa. Certo, soprattutto dall'esperienza lavorativa. Purtroppo insomma quello che penso è che un anno di lavoro è più formante dal punto di vista professionale, anche se dipende poi naturalmente da quello che si vuole andare a fare, che magari l'università, che è un po' più dispersiva. In ogni caso, nel mio caso particolarmente, l'autoformazione, insomma, l'apprendere da solo mi ha aiutato, insomma, la buona volontà dell'apprendere da solo. Massimo, un'ultima domanda. Secondo te, per fare questo lavoro, quali sono le competenze, le abilità che bisogna avere e su cui vale la pena, insomma, puntare? Allora, sicuramente sull'attenzione a quella che è l'immagine, la comunicazione e comunque il trend che c'è intorno a tutto, dall'immagine pubblicitaria all'immagine dei siti web, a quello che c'è in rete, sicuramente bisogna vedere, insomma, guardarsi attorno e soprattutto cercare di crearsi una competenza a livello di software, di utilizzo degli strumenti, che ti permette appunto di fare ciò, di creare, progettare e sapere cosa c'è intorno e soprattutto saper utilizzare gli strumenti. Massimo, prima di salutarti, se vuoi ricordare invece il tuo blog di cui ti occupi. Allora, potete trovarmi, comunicare con me a theloungeofmax.it e invece se avete bisogno di un sito internet, io lavoro presso Virtual Venice SRL a Marghera. Benissimo, Massimo, io ti ringrazio per essere stato qui con noi a 12 minuti e ora ci fermiamo per un breve intervallo musicale. Che cosa sai tu degli eroi che hanno in mano il copione che io perso nei tuoi occhi, non so che cosa si dice se la mente va, il cuore va, ma le labbra imprigionano. Sciogli la tua anima al sole, libera le tue parole. Già vai via, non resta qui ancora, anche se ora so che non c'è niente tra il sole e la luna, non siamo di mondi diversi io e te, ma stanotte io Saturno e tu Giove. Vieni, spaccami di baci, prendi in mano, senza esitare dammi parole d'amore che non sai spiegare, ma stringimi, accarezzami, respingimi, poi prendimi di nuovo e lasciami ancora sognare di averti tra il male e Dio. Lungo il silenzio in cui riallacci la camicia, dici che è un errore, che mi stai facendo male, ma io voglio continuare. Dodici minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Bentornati a 12 minuti, la puntata di oggi è dedicata al lavoro nel settore informatico e dopo aver parlato di web design con Massimo Fornasier, diamo il benvenuto alla nostra seconda ospite con cui approfondiremo il lavoro del social media marketing. Anna Zuccaro, benvenuta a 12 minuti. Buongiorno a tutti e grazie dell'ospitalità. Anna, di cosa ti occupi oggi esattamente? Allora, io mi occupo in particolare di un ramo del marketing, appunto il social media marketing, con cui si dà visibilità alle aziende, che è lo scopo primario del marketing, ma attraverso questi nuovi strumenti che sono i social network, ovviamente adeguando e integrando il tutto con la strategia di comunicazione perseguita dal cliente, quindi tempi, modi studiati, non improvvisando, ecco. Ecco Anna, per arrivare oggi a svolgere questa professione, qual è stato il tuo percorso formativo? Beh, innanzitutto partiamo da una grande passione per i testi, quindi sia la lettura che poi nella creazione dei testi. E, come laurea dopo il liceo ho iniziato la scienza della comunicazione, da cui poi sono passata alla specialistica in pubblicità e comunicazione d'impresa, quindi con esami di marketing, di e-commerce, ma anche sociologia, psicologia, oltre ovviamente esami specifici come tecniche pubblicitarie, inglese pubblicitario e via dicendo. Quindi un percorso mirato ad hoc, anche formativo, mirato per bene o male quello che è il mio lavoro di oggi. Assolutamente, quindi per tutto quello che riguarda appunto l'aspetto di comunicazione e appunto di marketing. Ecco Anna, per lavorare in questo campo specifico invece il social media marketing, secondo la tua esperienza quali sono le capacità che bisogna sviluppare? Beh, sicuramente bisogna avere una forte flessibilità nell'utilizzo degli strumenti, perché comunque prima di arrivare a utilizzare i social network intendo, bisogna conoscere intanto le dinamiche della comunicazione, un po' di gavetta magari nei vari rami, quindi che siano ufficio stampa piuttosto che appunto nel marketing o comunque in agenzie di comunicazione, che aiutino a capire come funziona l'intero processo comunicativo, e poi quindi la capacità e la volontà anche di tenersi aggiornati, perché sono strumenti estremamente volubili, cambiano proprio all'ordine del giorno. Benissimo Anna, io ti ringrazio per le informazioni e per i consigli che ci hai dato e ti auguro buon lavoro. Grazie mille a voi, buon lavoro. 12 minuti a cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Per chi volesse intraprendere la carriera del web designer o lavorare nel social media marketing e fosse alle prime armi, vi segnalo il corso di web design organizzato da Veneto Formazione, che avrà inizio il 14 dicembre. Il corso, della durata di 102 ore, ha l'obiettivo di insegnare ad affrontare tutte le esigenze che derivano dalla realizzazione di un sito web professionale, come ad esempio la produzione delle bozze da presentare al cliente, le regole e le convenzioni riguardanti l'accessibilità e l'usabilità dei siti, i fondamenti dei linguaggi HTML, XHTML e CSS per poter comunicare con il programmatore web o il webmaster e diventare parte di un team di sviluppo. Per quanto riguarda la parte software, il corso si concentrerà principalmente su Adobe Fireworks, Adobe Photoshop e l'editor per la stesura del codice Adobe Dreamweaver. Al termine del corso verrà rilasciato attestato di qualifica Veneto Formazione. Per avere ulteriori informazioni potete collegarvi al sito www.venetoformazione.it. Vi segnalo anche il corso di Social Media Marketing Specialist organizzato da Factory School, che si terrà a Piove di Sacco dal 10 al 14 dicembre 2012. Il corso mira a preparare professionisti della visibilità online in grado di progettare ed attuare strategie sui principali social network del momento, quali ad esempio Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, MySpace. Le lezioni saranno di tipo teorico-pratico per trasmettere sia conoscenze tecniche come la capacità di gestire e pianificare la comunicazione aziendale online, sia competenze socio-psicologiche e antropologiche. Per maggiori informazioni potete collegarvi al sito www.factoryschool.it o scrivere a info@factoryschool.it. Prima di salutarvi, anticipazione sulla prossima puntata, che sarà dedicata al lavoro nel campo medico e nello specifico alla professione del chirurgo. E per oggi è tutto, ci sentiamo la prossima settimana, bye bye! 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia.